البلاد طردوا الأجداد. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا يا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا ما قانون دولي يا قانون، العدالي شفنا على أساس. Esprimiamo quindi la nostra solidarietà a chi resiste in questo momento a Gaza e in tutti i territori che sono stati occupati nel 48. Buongiorno Palestina. Siamo presenti con due trasmissioni al mese su Radio Wombat, il mercoledì alle 17.30. Come ogni mese dedichiamo anche oggi una intera trasmissione alla rassegna stampa. Questo mese la rassegna stampa mensile è curata da Invicta Palestina, che oltre a fornire sul proprio sito una costante opera di traduzioni di articoli, cura un centro di documentazione ed una cineteca che mette a disposizione filmati su YouTube e in compact disc. Gli articoli che ascolterete nella rassegna stampa sono quelli che hanno preceduto l'attacco al cuore della Palestina, a Gerusalemme e alla moschea di Al-Aqsa, da parte di bande nazionaliste protette dall'esercito israeliano, che hanno scatenato la reazione dei giovani palestinesi nell'ultima settimana. Articoli dai quali si comprende bene la inevitabilità di questa reazione che si sta allargando ben oltre i quartieri storici di Gerusalemme. Nonostante la disinformazione unilaterale e di parte, intense e partecipate in tutto il mondo sono state le manifestazioni di sostegno al popolo palestinese per ciò che sta accadendo. E dalla Palestina, a cui sono pervenute immagini e notizie di queste manifestazioni, arriva un sentito ringraziamento ed una conferma del loro valore. Vi sono state inoltre molte iniziative a livello mondiale, di cui ve ne segnaliamo alcune, anche dal mondo ebraico. AVAZ, che è un network legato alla parte progressista dei democratici americani, ha parlato di apartheid e chiesto l'applicazione di sanzioni a Israele. Bernie Sanders, senatore americano ebreo, in un articolo sul New York Times, ha denunciato e condannato senza mezzi termini le violenze dei coloni, la legislazione discriminatoria, la violazione dei diritti dei palestinesi. Un gruppo di 39 giovani ebrei ed ebrei italiani esprime le stesse considerazioni. L'intergruppo della Camera per la Pace in Medio Oriente scrive al governo italiano perché agisca subito per fermare la violenza e assicuri il ripristino della legalità internazionale. Troverete i link a queste e ad altre iniziative sulla pagina di Buongiorno Palestina di oggi, 19 maggio, sul blog di Radio Wombat. E per rimanere nella nostra regione, in Toscana, vi diciamo che manifestazioni importanti si sono svolte a Livorno e a Firenze, dove più di un migliaio di persone hanno gremito Piazza San Lorenzo, in un vivace presidio colorato dallo sventolio di decine e decine di bandiere palestinesi e organizzato e gremito dai compagni di associazioni per la Palestina, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato e gente comune, di cui vi faremo ascoltare in parte le voci e gli interventi. Questo subito dopo la selezione stampa della settimana e un breve stacco musicale. Buongiorno Palestina, sono Angela e vi parlo degli articoli selezionati e pubblicati dall'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese in questa settimana. Ovviamente gli articoli sono incentrati soprattutto sulla situazione attuale che si è creata in seguito agli scontri per Sheikh Jarrah e ai bombardamenti a Gaza da parte di Israele. Nell'articolo «I palestinesi hanno il diritto di difendersi» si evidenzia il doppio standard condiviso da media e politici sul diritto all'autodifesa che viene sempre invocata è riconosciuta per Israele e mai per i palestinesi, nonostante ciò costituisca un diritto fondato sul diritto internazionale, così come approvato da una risoluzione ONU del 1982 che afferma la legittimità della lotta dei popoli per l'indipendenza, l'integrità territoriale, l'unità nazionale e la liberazione dalla dominazione coloniale e straniera e dalla occupazione straniera con tutti i mezzi disponibili, compresa la lotta armata, facendo riferimento ben 11 volte ai palestinesi descritti come sotto il dominio straniero e coloniale. Interessante l'articolo di Tom Suarez sulle truffe mediatiche che analizza il linguaggio dei media partendo dall'uso delle parole che vengono usate in modo strumentale, tale da generare nel lettore l'idea che, ad esempio, Gerusalemme Est sia in Israele e quindi soggetta alla legge israeliana, in modo così da giustificare la repressione. Altri esempi vengono citati, come il fatto che l'autorità palestinese sia il governo autonomo dei palestinesi e che possa esercitare una forma di potere sui territori, cosa che non è assolutamente vera. Insomma, ce n'è abbastanza per capire l'importanza e il potere che hanno i media occidentali nel far passare una narrazione tutta a favore di Israele. L'articolo su Gaza, la strage degli innocenti, ci aggiorna sul triste bilancio delle vittime dei bombardamenti a Gaza, che fino a sabato 15 maggio erano 145. Riferisce inoltre sulle manifestazioni che sempre sabato 15 maggio si sono tenute in Italia, in Europa e nel mondo in solidarietà con il popolo palestinese, sugli scontri avvenuti nel nord Israele tra ebrei e arabi palestinesi, del bombardamento dell'edificio dove avevano la sede i media, tra cui Al Jazeera, del massacro di una intera famiglia con 8 bambini nel campo profughi di Shati, a nord di Gaza, e degli scontri in Cisgiordania e al confine, e dell'emergenza sanitaria a Gaza. Abbiamo poi 3 articoli, ognuno dei quali riporta le dichiarazioni, riflessioni e analisi politiche di 3 importanti intellettuali ebrei e israeliani. Si tratta di Ilan Pappe, Moni Ovadia e Amira Haas. Ilan Pappe, israeliano, storico, autore del libro La pulizia etnica della Palestina, ci ricorda come i palestinesi, proprietari delle loro case che possedevano prima del 48 a Gerusalemme Est, non possono oggi reclamarne la restituzione da parte di Israele, cosa che invece è consentita agli ebrei, che infatti ne rivendicano la proprietà nel quartiere di Sheikh Jarrah a Gerusalemme Est, teatro degli scontri di questi ultimi giorni. Sottolinea inoltre come la Nakba, cioè l'espulsione dei palestinesi dalle loro terre, sia stata pianificata e che gli archivi di Israele contengano numerosi documenti che la provano. Moni Ovadia, attore, autore e regista ebreo, ci ricorda come Israele usi strumentalmente la tragedia della Shoah per giustificare il genocidio dei palestinesi e accusa la comunità internazionale e l'Italia in particolare per non denunciare la politica criminale di Israele, invitando al boicottaggio delle merci israeliane. Infine, Amira Haas, che ci racconta della storia drammatica della famiglia Iscafi, che nel 48 fu espulsa dal villaggio Abaca e che oggi si trova a lottare sempre contro Israele per la confisca della casa dove abita a Sheikh Jarrah. L'autrice, nel rinnovare il suo sostegno alla causa palestinese, evidenziando la loro eroica resistenza, riporta le parole di Odeh, presidente della Joint List arabo-israeliana, che rivolgendosi alla popolazione ebraica di Israele ha detto che chi vuole vivere in pace deve vedersi come parte della giusta lotta di Gerusalemme Est contro questa nefasta occupazione. Con questo concludo la selezione stampa, ricordando che gli articoli di cui ho parlato li potete leggere in italiano con le rispettive fonti sul sito dell'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني Ciao a tutti, sono Lorenzo della redazione Invicta Palestina. Ringrazio i compagni e le compagne di Radio Wombat e della redazione di Buongiorno Palestina per lo spazio concesso sui temi riguardanti la Palestina e Medio Oriente. Iniziamo col dire cos'è Invicta Palestina. Invicta nasce nel 2010 per idea di Rosario Citriniti come centro di documentazione e spazio di eventi in Calabria riguardanti la Palestina e il Medio Oriente. Oggi molte cose sono cambiate, il centro fisico, una volta collocato a Pentone in provincia di Catanzaro, si è trasferito a Lamezia Terme per poi continuare la sua attività online. Invicta Palestina è supportata da una redazione di 8 collaboratori sparsi in tutta l'Italia con il fine di documentare con materiale scritto e multimediale la questione palestinese, mettendo a disposizione di tutti questo materiale, impegnandosi in un faticoso lavoro di controinformazione e denunciando l'immagine che Israele impone in tutto il mondo, quella di uno Stato che si deve difendere dal terrorismo arabo, nascondendo il vero volto colonialista che ha come unico scopo la pulizia etnica della Palestina. Il nostro occhio sul Medio Oriente, oltre che sulla Palestina, si rivolge anche ad alcune aree che monitoriamo da tempo: Egitto, Turchia, Afghanistan, Libano, Siria e rivoluzione curda in Rojava, un contesto di guerre sanguinose, repressioni, destabilizzazioni che intrecciano politica, geopolitica e interessi imperialisti delle grandi potenze. Breve spazio cercherò di esporvi gli articoli su temi politici che abbiamo tradotto come Invicta Palestina. Partiamo quindi con un articolo pubblicato da Forward il 28 aprile che problematizza il termine apartheid, riferito alla questione palestinese, affermando che non cattura la pienezza della sofferenza palestinese, ma aiuta a comprenderla. La riflessione parte da chi scrive, Muhammad Shehada, al quale, in un recente incontro con un rappresentante delle Nazioni Unite, gli era stato chiesto di suggerire concetti che cogliessero la sofferenza che la sua famiglia deve sopportare a Gaza. Come scrive Shehada, ci sono numerose parole che si possono evocare estemporaneamente o dopo un'attenta riflessione per invocare associazioni nella mente del lettore che possono riflettere la brutalità dell'umiliazione, del confinamento a cui noi palestinesi siamo stati sottoposti. Ma niente può cogliere e descrivere completamente l'agonia e la sconfitta di guardare impotente negli occhi del mio defunto padre, sofferente nei suoi ultimi istanti di vita, incapace di parlare dal dolore, nell'impossibilità di ricevere medicine o cure, perché Israele aveva appena rinchiuso 2 milioni di noi, abitanti di Gaza, in una prigione a cielo aperto. Essere bloccati in un garage sotterraneo durante l'operazione Pombo Fuso nel 2009, la guerra di 3 settimane tra Israele e militanti di Hamas che ha causato la morte di 1500 abitanti non è facile, soprattutto perché si ha sempre il timore di far rumore, di avere paura di muoversi, paura di dormire, paura di restare svegli. Come scrive Sheada, non osammo muoverci, solo sussurri e tremori finché non arrivò il silenzio con l'alba. Se fossimo morti, la nostra esistenza sarebbe stata ridotta a meri danni collaterali, semplici statistiche che non evocavano alcuna empatia o compassione. È in queste parole che si afferma come nessuna parola, nemmeno apartheid, può cogliere l'agonia di amici disperati e persone care che ogni giorno si sentono vivi solo per non essere morti. Un termine giuridico universale che impersonalmente comprende tre parametri: l'intento di dominare, l'oppressione sistematica e uno o più atti disumani che meticolosamente vengono descritti nel rapporto di 223 pagine di Human Rights Watch. Un termine carico di evocazione del regime razzista più repressivo della storia moderna, come quello sionista, ma che non coglie pienamente l'esperienza palestinese, ma si limita a darne un'idea. Un'altra notizia riguarda ciò che sta succedendo in Spagna, in cui è nata la campagna Freedom for Juana per richiedere la liberazione della cooperante spagnola arrestata in Israele senza accuse. Juana Ruiz Sanchez è una cooperante umanitaria che da più di 30 anni in Palestina coordina una ONG sanitaria che da tempo opera nel Beit Sahour, vicino a Betlemme. A darne la notizia è Infopale il 28 aprile. L'arresto è avvenuto martedì 13 aprile 2021 alle 5:45 del mattino, quando più di 20 soldati israeliani sono apparsi in casa della famiglia di Juana, pesantemente armati. Dopo aver intimidito Juana, suo marito palestinese e sua suocera, che vive nella casa di famiglia, Sanchez è stata portata via per essere interrogata. È stata prelevata senza nessuna accusa, così come succede a moltissimi palestinesi e, secondo la legge israeliana, potrebbe restare in carcere fino a 2 mesi. Il movimento sta per richiedere la scarcerazione, portando avanti alcuni obiettivi: il rilascio immediato di Sanchez, il rilascio del resto delle persone arrestate nel corso di questa nuova operazione di molestie contro alcune organizzazioni umanitarie, che lo Stato di Israele rispetti il diritto internazionale umanitario e i diritti umani della popolazione palestinese, che lo Stato di Israele effettui una riparazione materiale per i beni danneggiati e confiscati ad alcune organizzazioni, alcuni dei quali finanziati dalla cooperazione spagnola, che il governo, in ultimo, spagnolo, agisca in merito e faccia pressioni su tutto ciò che è in suo potere per ottenere l'immediato rilascio di Juana Ruiz Sanchez. Un'altra importante notizia è data da Haaretz in un articolo pubblicato il 25 aprile dal titolo L'amicizia incondizionata per Israele deve finire. In questo articolo si afferma che l'America ha bisogno di una discussione aperta e onesta sul perché convoglia ancora miliardi di dollari dei contribuenti statunitensi in Israele, un paese ricco e sviluppato che viola regolarmente e indiscriminatamente i diritti umani senza fare domande. Nel 1978 Jimmy Carter minacciò di interrompere tutti gli aiuti militari a Israele dopo che il governo di Begin aveva violato la legge americana utilizzando munizioni a grappolo in Libano e trasferendo armi di fabbricazione statunitense a milizie libanesi amiche. La posizione di Carter probabilmente ha salvato molte vite e ha contribuito a prevenire un'ulteriore recrudescenza. Oggi, dopo altri 30 anni di espansione degli insediamenti, in osservanza del diritto internazionale e violazione dei diritti umani, a quanto pare Israele non ha nulla di cui preoccuparsi. Le rassicurazioni che i generosi aiuti americani continuano a fluire senza fare domande sono diventate un pilastro bipartisan della politica estera degli Stati Uniti. Questa posizione sconcertante legittima Israele a non cambiare rotta. In vista del recente disegno di legge introdotto da alcuni democratici al Congresso, che proibirebbe il finanziamento statunitense di alcune attività israeliane legate all'occupazione, si dovrebbe tenere una discussione aperta e onesta, svincolata dall'influenza dei lobbisti e da false accuse di antisemitismo, sul fatto che sia ragionevole continuare a incanalare miliardi di dollari dei contribuenti statunitensi verso un paese violato sistematicamente, in cui si violano sistematicamente i diritti umani e il diritto internazionale. Un altro fatto grave, sicuramente avvenuto, è riportato a inizio aprile dal sito in lingua spagnola Público. È successo in Spagna dove un giornalista palestinese rifugiato ha denunciato un interrogatorio illegale da parte della Guardia Civile e del Mossad a Madrid. Questo ha sicuramente portato un grande scalpore, dal momento che questo giornalista era già da tempo che aveva subito alcune minacce e alcuni interrogatori illegali da parte del Mossad in territorio spagnolo. Questa è l'ulteriore in cui questo giornalista palestinese riceve minacce dall'intelligence israeliana. Già dal 2006 al 2017 il Mossad cercò di interrogarlo in diverse occasioni, ma secondo la sua testimonianza, il giornalista in questione, Muad Ahmed, non si è sempre rifiutato di collaborare con i servizi segreti israeliani, che denunciando addirittura pubblicamente per rappresaglia questi fatti e venendo arrestato in diverse occasioni. عيك يا شعب الوطن يا مقاوم الاحتلال عي فيك البسالي والكفاح والعين سهراني بعيون الجنود أطفال نار الشر مال يا بلاد العود قريبي والانتفاضة شعالي من مخيم لمخيم جسر الدوار أطفال الأرض السمراء ورد وأزهار مخيم لمخيم جسر الدوار أطفال الأرض السمراء ورد وأزهار يا شعبي ضلك ساير من جبل النار من غز الشعل الحمراء من غار الغار يا شعبي ضلك ساير من جبل النار من غز الشعل الحمراء من غار الغار مخيم لمخيم جسر الدوار أطفال الأرض السمراء ورد وأزهار من مخيم لمخيم جسر الدوار أطفال الأرض السمراء ورد وأزهار Ad aprile il sito Spectre Journal ha riportato riflessioni sul manifesto lanciato il 15 marzo 2021 in occasione del Mese internazionale delle donne dal collettivo femminista palestinese dal titolo La Palestina una questione femminista. Nei giorni che seguirono migliaia di organizzazioni e individui si sono iscritti da Stati Uniti, Palestina, Kenya, Sudafrica, Scozia, Regno Unito, Cile, Australia, includendo figure femministe come Judith Butler e oltre 200 organizzazioni femministe queer con sede negli Stati Uniti, tra cui la National Women's Studies Association, la Black Women Radicals e organizzazioni femministe in Palestina e in tutta la regione araba. Tuttavia, quando il manifesto è stato condiviso in varie social media, sono emerse critiche che apparentemente hanno trascurato la sua visione femminista, saldamente fondata sull'analisi decoloniale, impegnata in una lotta congiunta. Alcuni critici hanno sostenuto che la Palestina sia una lotta per i diritti umani piuttosto che femminista, mentre altri hanno sostenuto che il femminismo è un costrutto occidentale incompatibile con le strutture e le tradizioni spirituali, politiche e culturali palestinesi. Alcuni hanno espresso esitazione o rifiuto totale di riconoscere la Palestina come una questione femminista, sostenendo che il femminismo è stato uno strumento di intervento imperialista nelle terre e nelle comunità del sud-est asiatico e Nord Africa. Tali critiche hanno dimostrato come definizioni ristrette del femminismo, vale a dire il femminismo coloniale occidentale, rimangono dominanti nella coscienza popolare, piuttosto che elaborazioni autodeterminate dal femminismo offerte dal pensiero e dalla prassi femminista palestinese, araba, nera, indigena e terzomondista. Un'attenta lettura dei principi presentati nel manifesto rivela che il collettivo femminista palestinese ha una profonda consapevolezza delle tensioni e delle ansie che circondano la questione del femminismo tra i circuiti degli attivisti palestinesi. Tuttavia, il manifesto propone che il femminismo, come definito e praticato ai popoli oppressi, possa essere un percorso rilevante per la realizzazione della liberazione palestinese e pone l'urgenza di considerare nel presente la Palestina come una questione femminista. Perché la Palestina dovrebbe essere una questione femminista? Secondo questo gruppo, perché il colonialismo è una struttura basata sul progetto di violenza di genere e sessuale, soprattutto il sionismo. Le forme dominanti di femminismo occidentale o coloniale enfatizzano l'acquisizione di diritti individuali piuttosto che la libertà collettiva, e sono queste forme di femminismo che lo Stato sionista mobilita. In tali condizioni, le donne palestinesi sono relegate quindi a soggetti bisognosi che devono essere salvati dalla violenza patriarcale delle proprie famiglie e della società. La violenza strutturale del progetto coloniale sionista è elusa. Si presume invece che i salvatori provengano dalle cosiddette democrazie liberali dell'Occidente, amanti della libertà e dei diritti, mentre coloro che hanno bisogno di essere salvati provengano dall'antimoderno, non illuminato e inquietante Oriente, immaginato razzialmente. Decostruire questi sistemi binari coloniali non è affatto una novità. I resoconti orientalisti delle soggettività delle donne arabe, palestinesi e musulmani sono stati a lungo contestati e smascherati come stratagemmi coloniali da pensatori, studiosi e movimenti femministi del terzo mondo. Ad esempio, nel 2011, una delegazione di indigeni e donne di colore in Palestina rilasciò una dichiarazione in cui affermava: «In quanto femministe deploriamo la pratica israeliana del pinkwashing, l'uso da parte dello Stato di un apparente sostegno all'uguaglianza di genere sessuale per nascondere la sua occupazione militare». Un'ultima notizia riguarda piuttosto allo stop alla rimozione dei palestinesi a Gerusalemme Est. Questo è il nome della petizione rivolta al segretario di Stato americano Tony Blinken e al segretario alla difesa Lloyd Austin per richiedere la fine delle evacuazioni illegali dei palestinesi e le demolizioni delle loro case da parte di Israele. Oltre 1500 palestinesi dei quartieri di Gerusalemme sono minacciati di evacuazione forzata e demolizione di case da parte delle autorità israeliane. I bambini costituiscono una grande percentuale delle famiglie minacciate di diventare senza tetto. Recentemente i tribunali israeliani si sono pronunciati a favore dei coloni ebrei e hanno concesso tempo sino a maggio a quattro famiglie dei vari quartieri, tra cui Sheikher Jarrah, per lasciare le loro case. Un totale di 20 famiglie dovrà affrontare la demolizione di case entro l'11 maggio per far posto a un presunto sito turistico ispirato alla Bibbia. Questo fa parte del più ampio piano israeliano di espansione coloniale razzista in tutta Gerusalemme Est e in Cisgiordania, che allontana con la forza le famiglie palestinesi dalle loro terre e dalle loro case e le sostituisce con insediamenti israeliani illegali. Quello a cui stiamo assistendo è il tentativo di Israele di cancellare la presenza palestinese in tempo reale. Questa è l'origine delle recenti proteste che sono sfociate in una vera e propria operazione di pulizia etnica da parte dell'esercito israeliano e di bombardamenti israeliani che, stando ai comunicati stampa della Mezzaluna Rossa palestinese, hanno portato fino all'11 maggio più di 500 feriti e a circa una trentina di morti. L'attenzione è alta su ciò che sta accadendo in Palestina, anche da parte dei media mainstream, che si ostinano a riportare Israele come la vittima di quello che sta avvenendo, ribaltando completamente i rapporti di forza oppresso-oppressore. Sebbene non ci siano ancora fondi necessari per affermarlo, queste proteste potranno dare inizio a una nuova intifada? الذي يعرف ريتا ينحني ويصلي لعيون عسلية وأنا قبلت ريتا عندما كانت صغيرة أذكر كيف التصقت بي غطت ساعدي أحلى ضفيرة آه ريتا آه ريتا اسم ريتا كان عيدا في فمي جسم ريتا كان عرسا في دمي وأنا أضعت بريتا. Ciao a tutte e tutti, sono Grazia. In questo breve spazio riprenderò alcuni articoli tradotti e pubblicati da Invicta Palestina che in diversi modi parlano dell'ambiente e di tematiche ad esso connesse. Partiamo da This Week in Palestine, che ha dedicato il suo numero monografico di aprile proprio all'ambiente, con un articolo sui cambiamenti climatici della biologa ambientalista Adili Khmeis. Già dal 2010 la Palestina ha sviluppato una strategia per l'adattamento ai cambiamenti climatici, identificando l'acqua e la sicurezza alimentare come le questioni più vulnerabili. Gli impatti dei cambiamenti climatici che interessano la Palestina includono diminuzione delle precipitazioni, riscaldamento significativo, eventi meteorologici estremi più frequenti, innalzamento del livello del mare. Tutto ciò porterà e sta già portando a maggiore scarsità d'acqua, ridotta produttività agricola, diminuzione della sicurezza alimentare e idrica e intrusione di acqua salina nelle falde. Per il settore idrico, il cambiamento climatico aggraverà gli effetti dell'attuale controllo di Israele sulle fonti idriche regionali. Nell'articolo si evidenzia come, al fine di affrontare questi problemi, la Palestina abbia adottato un elenco di azioni da attuare in 12 diversi settori, inclusi per esempio quelli dell'acqua, dell'agricoltura, della sanità. Le risorse finanziarie stimate necessarie per attuare pienamente da oggi al 2040 questo piano ammontano a 14 miliardi di dollari, di cui 23 milioni già forniti dal Green Climate Fund, ma occorrerà identificare altri donatori. La criticità della situazione è ovviamente aggravata dall'occupazione israeliana, che riduce di molto le capacità di adattamento e che rende ancora più impattanti le vulnerabilità climatiche. L'occupazione, infatti, e la continua crescita degli insediamenti illegali, aggravata dalle attività svolte dai coloni, inquinano pesantemente gli ecosistemi naturali e l'ambiente, e gli esempi a questo proposito se ne potrebbero veramente fare moltissimi. Amira Gabarin, nel suo articolo dedicato agli ulivi di Palestina, ben evidenzia, parlando di questi alberi, il doppio aspetto di queste minacce, ovvero quelle del cambiamento climatico e quelle dell'occupazione. Tutti noi sappiamo come gli ulivi rappresentino il simbolo della fermezza e della resistenza, poiché gli ulivi, vecchi di migliaia di anni, collegano i palestinesi alla loro terra, alla loro identità e al loro patrimonio culturale. Nonostante siano piante molto resistenti, il cambiamento climatico ha avuto un impatto negativo anche su di essi. Nell'articolo vengono riportati i dati della The Olive Oil Times, che alla fine del 2020 ha riferito come la produzione di olive durante quell'anno sia diminuita di quasi il 70%, e questo proprio per la mancanza di pioggia. Si potrebbe ricorrere all'irrigazione, ma l'acqua è ciò che gli agricoltori non hanno, e non hanno a causa dell'occupazione, che non solo controlla tutta la rete idrica, ma impedisce anche lo scavo di nuovi pozzi. Nel 2020, inoltre, sono stati estirpati o bruciati dai coloni oltre 8.400 ulivi. Tra il 2001 e il 2012, l'esercito israeliano e i coloni hanno distrutto collettivamente almeno 500.000 di ulivi, cosa che si traduce ovviamente anche in gravi danni economici. Anche la protezione degli ulivi e dell'ambiente si trasforma quindi in una forma di resistenza, la stessa resistenza che ritroviamo nel video di Now Time dedicato a Vivien Sansour, scrittrice e attivista di Beit Jala, che dopo aver vissuto negli Stati Uniti per diversi anni è tornata in Palestina, dove a Battir ha fondato la Biblioteca dei Semi Antichi Palestinesi, che racchiude circa 50 varietà di semi. Sansour racconta quanto il paesaggio della sua infanzia, ricco di terrazzamenti coltivati, frutteti, ortaglie, sia cambiato a causa della mancanza d'acqua, causata sì dal cambiamento climatico, ma soprattutto dall'occupazione, e di come un'intera generazione stia crescendo senza alcuna relazione con la terra. Ecco perché la biblioteca, oltre a prestare semi agli agricoltori, organizza anche laboratori e attività comunitarie per cercare di mantenere viva la cultura e il rapporto con la terra. Sansour richiama il potere della vita insito nei semi e attraverso la loro storia racconta la storia della Palestina. Sempre da This Week in Palestine, un articolo della dottoressa Yara Dahdal, attualmente project manager presso la Nature Palestine Society, offre un interessante panorama sugli uccelli di Palestina. Secondo la Nature Palestine Society, ci sono 367 specie di uccelli presenti nel paese in vari periodi dell'anno. Circa un terzo di loro si riproduce in Palestina, come il ciuccari, il bulbul dagli occhiali e la nettarina, l'uccello nazionale palestinese. Altri la abitano temporaneamente, seguendo le rotte migratorie, ricordando che la Palestina si trova sulla seconda rotta aerea di migrazione più importante del Mediterraneo. Le grandi minacce e le sfide che l'ambiente palestinese deve affrontare si riflettono direttamente anche sull'habitat, sul benessere e sulla diversità degli uccelli. La frammentazione degli habitat dovuta all'occupazione e l'espansione urbana ne stanno distruggendo i siti di nidificazione e i territori di foraggiamento. L'uso insostenibile di pesticidi e di altre sostanze chimiche li sta avvelenando e diminuendone tragicamente il numero, unitamente al bracconaggio e alle abitudini di caccia radicate nella cultura locale. Il cambiamento climatico e le sue conseguenze influenzano il loro ciclo di vita annuale e la loro capacità di nutrirsi e riprodursi. Nell'articolo si evidenzia come sia necessario fare di più per la loro salvaguardia, con una maggiore sensibilizzazione e una revisione della legge ambientale palestinese per conformarsi alle convenzioni e ai trattati internazionali e per prevedere sanzioni deterrenti contro i crimini ambientali. Ugualmente minacciato dal cambiamento climatico e dalla distruzione di aree naturali da parte dell'occupante, è anche il fiore nazionale palestinese, il Fakwa Iris, il cui numero è drasticamente diminuito, tanto che la Palestine Wildlife Society ha implementato due progetti il cui comune obiettivo è quello di favorire la conservazione dell'iris sia a livello nazionale che globale. Di questo si parla nell'articolo di Imad Atrash e Maha Abu Gharbie. In tutti questi articoli risulta evidente come l'occupazione israeliana svolga un ruolo determinante nella distruzione dell'ambiente e della biodiversità in Palestina. Ma grazie a una sua attiva politica di greenwashing, usualmente il paese viene considerato all'avanguardia nell'applicazione delle scelte green e nella protezione dell'ambiente e usa questa immagine per mascherare i suoi crimini. Jessica Buxbaum, giornalista con base a Gerusalemme, ha scritto un articolo per Meat Press nel quale parla di Regavim, un'associazione che si maschera dietro fini ambientali per sfrattare palestinesi e beduini dalle loro terre con il pretesto di proteggere le risorse ambientali più rare e preziose di Israele, risorse che, guarda caso, vengono individuate tutte nei territori palestinesi occupati. Regavim è stata fondata nel 2006 da Bezalel Smotrich, ex membro del Parlamento israeliano e capo del partito religioso sionista, che nelle elezioni di marzo si è assicurato 6 seggi. Un'indagine di Arez del 2018 ha rivelato che il gruppo è finanziato non solo da contribuenti israeliani, ma anche americani, in particolare attraverso donazioni fiscalmente deducibili da 3 organizzazioni no profit con sede a New York. L'Asbara israeliana è molto attiva anche nel proporsi come attenta ai diritti animali. E a questo proposito citiamo l'articolo di Alice Rothschild, pubblicato da Mondo Waze e riferendosi a un pezzo di Patrick Kingsley apparso sul New York Times. L'articolo del New York Times si apriva con la foto di una mamma cinghiale che attraversa una strada di Haifa seguita da 8 piccoli, mentre un autista sorridente resta in attesa, e citava un'affermazione di Edna Gorney, poetessa, ecologa e docente dell'Università di Haifa, che diceva: «Vorrei che tutti in Israele imparassimo a vivere come vivono ad Haifa. È un esempio di convivenza, non solo tra arabi ed ebrei, ma anche tra esseri umani e fauna selvatica». Alice Rothschild confuta nell'articolo proprio questa visione idilliaca di convivenza, sia verso gli animali selvatici che verso i palestinesi. È infatti risaputo e ampiamente dimostrato quanto la storia di Haifa sia una storia di occupazione, pulizia etnica e razzismo, e come i cinghiali, pur tuttavia animali autoctoni, vengano usati dagli israeliani come arma contro i palestinesi, liberandoli nelle loro fattorie per causare danni. Parlare di cinghiali che mangiano fiori ad Haifa è certamente molto più simpatico e divertente che dover parlare della sistematica politica di apartheid o di quanto Israele utilizzi la questione animale per celare i propri crimini verso i palestinesi. Ora sono riusciti anche a mettere dei burattini d'oro a livello europeo, a dire c'è il motto, la prima cosa che dicono: condanniamo Hamas, condanniamo i palestinesi, ragazzi. Ma da che mondo è mondo? Come si ragiona? Chi è più forte che detta le regole? Ma secondo voi ci vuole un mago per capire che i palestinesi sono inermi, non hanno la forza? Da quanti anni Gaza sembra un salvadanaio, porca miseria? È un salvadanaio, non hanno nemmeno banca poco e gli tolgono anche il respiro. Non possono pescare, non possono mangiare, non possono, non hanno tunnel, non hanno più niente. Loro fanno e loro... qualcosa per difendersi dai fabbri, lo fabbricano a casa. Questo non è una guerra, non potete chiamare guerra. La guerra vuol dire esercito contro un altro esercito. In questo spazio riprenderò i contenuti di alcuni articoli e video tradotti e pubblicati da Invicta Palestina sui temi dell'arte e della cultura. Partiamo dal sito di Institute for Palestine Studies, che il 17 aprile ha pubblicato un articolo sulla recente esposizione dell'artista libanese Marwan Rekmawi, tra i più importanti esploratori del realismo sociale e dell'espressionismo astratto. Può essere ragionevole supporre che le guerre abbiano un loro stile architettonico, giornali, economia, cultura e vita politica, così come l'arte. Questo è quello che Rekmawi sta tentando di mostrare al mondo. Dalla cera, dall'acciaio, dall'alluminio, dal cemento, dalle macerie e dai resti delle città, l'arte di Rekmawi non solo tenta di recuperare la memoria di Beirut con i suoi eventi politici, economici, culturali e sociali, ma la recupera in mezzo alle rovine della guerra estenuante che continua a rivendicare parti della storia architettonica delle città libanesi. Rekmawi raccoglie ricordi delle abitudini dei mercanti di Beirut, delimitando i bazar in base al tipo di merce venduta e alle loro dimensioni. Ci ricorda i vecchi bazar di Beirut che furono distrutti dalla guerra civile nel 1975 e il loro trasferimento nei vari quartieri e della successiva assuefazione e la loro cancellazione durante l'invasione del 1982. E recupera ricordi dei chicchi di grano decimati dalla grande esplosione al porto di Beirut avvenuta il 4 agosto del 2020, li estrae dal panorama di Beirut e del suo vasto mare inesplorato. Lo stesso spirito del carattere politico della cultura in Medio Oriente lo possiamo vedere a Gaza, in cui appunto l'arte e la cultura sono un importante strumento per salvaguardare il patrimonio storico. Questo è ciò che evidenzia il video girato da Gaza Stories, che in un video pubblicato a fine aprile riporta la nascita del progetto Bitcoin Amer, ovvero La vostra casa generosa, un'iniziativa lanciata da alcuni giovani con il fine di mettere in luce l'importanza dei luoghi storici nell'aiutare l'arte e la cultura palestinese, che oggi è sotto attacco a causa della prepotenza coloniale israeliana che, se da un lato fa di tutto per cancellare la storia palestinese, persino dai libri di testo scolastici, dall'altro attua delle vere e proprie operazioni di appropriazione culturale, cercando di spacciare come israeliano ciò che in realtà è storicamente, culturalmente di tradizione araba-palestinese. Vogliamo utilizzare Arte con lo scopo di creare cambiamento intorno a noi. Questo è il motto del progetto, che sta cercando di recuperare antiche strutture per trasformarle in luoghi di arte e cultura che tengano viva la Palestina nella sua integrità. Sempre Gaza Stories ha pubblicato un breve video documentario dal titolo «Gaza produce la sua modesta musica». La musica è un elemento essenziale della cultura palestinese che oggi viene vista come un nuovo modo di fare resistenza. Infatti, negli ultimi tempi a Gaza moltissimi giovani ed attivisti stanno tornando alla musica come mezzo di protesta contro le crisi che coinvolgono la Palestina, sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista economico, politico, sanitario. Come ha affermato il musicista palestinese Jaber Alaj, il neonato di pochi giorni reagisce e si calma quando la mamma canta per lui. Questo significa che è nato con una sensibilità per la musica. La musica è la lingua universale che tocca le persone e, più dei discorsi politici, può trasmettere con forza la voce e il messaggio al popolo palestinese. Un altro evento importante successo nell'ultimo mese è sicuramente la rivalutazione di una delle opere dell'artista di Gaza, Yad Sabah, che si può trovare appunto nelle sue esposizioni in tutto il mondo e soprattutto con la fama di portare come bagaglio culturale la Palestina. Di importante rilevanza è sicuramente l'arte di Gaza nei suoi simboli più antichi. Infatti nel mezzo di Gaza City si trova Palestine Square, un luogo di ritrovo comune per i palestinesi, la quale presenta una statua di una fenice di bronzo invecchiato, con le ali rivolte al cielo come se stesse per spiccare il volo. La fenice ha un importante significato mitologico, simbolico e culturale per i palestinesi, dal momento che, secondo la leggenda, la fenice è risorta dalle sue ceneri in mezzo alla distruzione. Un motto quasi rivoluzionario per qualsiasi palestinese. Quella scultura è stata fatta dall'artista, appunto, Yad Sabah, uno degli artisti più afferrati della striscia. I suoi lavori sono stati esposti in tutto il mondo, in particolare in Francia, Italia, Portogallo, Repubblica Ceca, Egitto, Oman, Tunisia, Marocco, Cina, Turchia e Corea del Sud. Ma le radici di Sabah e la sua ispirazione sono dentro e da Gaza. Lui nasce in Arabia Saudita nel 1973 da genitori palestinesi originari del villaggio palestinese di Barer, a nord di Gaza, che fu distrutto nel 1948 durante la Nakba. Dopo la morte della madre in un incendio e di suo padre per un attacco cardiaco, Yad andò a vivere a Gaza. Quando iniziò le medie scoprì la sua più grande passione, l'arte. La Fenice è stata la mia prima opera ufficiale a Gaza e mi ha reso popolare, ha ricordato Sabah. Era la prima del suo genere realizzata in fibra di vetro invece di un stampo in cemento come era consuetudine all'epoca. In questo periodo Yad Sabah è molto impegnato per l'indipendenza della Palestina. Ha ricordato, sebbene con tutte le difficoltà e il rancore, che gli artisti a Gaza sono ancora molto ostacolati dal blocco, impedendogli di partecipare alle mostre internazionali. Non a caso, uno dei più grandi problemi dell'oggi è che molti artisti palestinesi sono esclusi, marginati dal panorama della cultura in generale in tutti i campi del sapere, soprattutto in Israele, dove addirittura ancora oggi l'essere palestinese è una connotazione molto più forte rispetto alle proprie competenze, alle proprie capacità, alla propria conoscenza e alla propria intelligenza. Ultima tra le notizie, ma non sicuramente per importanza, è la premiazione per il miglior cortometraggio del film palestinese The Present alla British Academy of Film and Television Arts. A dare la notizia è Middle East Eye l'11 aprile, parlando come se fosse una conquista per l'intera Palestina. The Present, ovvero Il Regalo, è un film ambientato nella Cisgiordania occupata, diretto dalla regista britannica palestinese Farhan Abulsi e scritto insieme al regista e poeta palestinese Hindi Shufani. The Present è stato anche nominato per l'Academy Award e per il miglior cortometraggio live action agli Oscar del 2021, che si sono tenuti il 26 aprile. Nel suo discorso di ringraziamento, Nabulsi ha dedicato il premio al popolo palestinese, per il quale la libertà e la qualità sono attese da tempo. The Present, presentato il 2 aprile, il 2 febbraio 2020, si concentra sulla storia di Yusuf e della sua giovane figlia che affrontano soldati e posti di blocco israeliani nella loro missione di conquistare un regalo per l'anniversario di matrimonio. Il film, girato in 6 giorni in Palestina, si apre in un posto di blocco israeliano sovraffollato. Una scena girata sul posto, molto molto realistica. In un panel durante il festival, l'Other Israel Film Festival, Nabulsi ha detto che quella scena in particolare è stata probabilmente la più gratificante da realizzare. A testimonianza della qualità del film, Nabulsi ha evidenziato l'autenticità della scena di apertura di The Present. L'unica finzione in quella scena è il nostro protagonista, Yusuf. Tutte le altre centinaia di palestinesi che appaiono sono veri palestinesi che stavano andando a lavorare all'alba. Questa è la dichiarazione di Nabulsi. Questa è la storia, questo è il film, esprimendo molto stupore per la notizia. Molti registi si sono congratulati con Nabulsi e con la sua equipe per questo splendido film che ancora oggi ha il coraggio di raccontare la verità e ciò che vive quotidianamente ogni palestinese nella striscia di Gaza, in Cisgiordania, sotto l'occupazione israeliana e la violenza dei coloni durante l'occupazione militare illegale. It rained again. Bombs. Endless. Vediamo ora con Suad Amiri, scrittrice, architetta palestinese. Buonasera. Buonasera, grazie, buonasera. Secondo lei perché la violenza è scoppiata proprio ora? So the problem is that Israel has Israele sta provocando i palestinesi da anni. Per capire la situazione dovete tenere a mente due parole, due concetti. Una è occupazione, l'altra è umiliazione. Hamas ha scelto la via militare, il confronto militare con Israele. Secondo lei questa è la scelta giusta, l'unica scelta possibile? Gaza has been under siege. Le dico una cosa, Gaza è sotto assedio da 15 anni. E cosa ha fatto l'America? Cosa avete fatto voi? Cosa ha fatto l'Europa? A Gaza vivono 2,5 milioni di persone. Non possono uscire. Se sono malate, se hanno un tumore, non possono uscire. E cosa fa Israele? Bombarda i civili. E cosa fa l'Europa? Niente. Uccideteli pure i bambini e le donne. Io credo che sia ormai ora di dire basta a Israele. Volete uno Stato ebraico? Lo potete avere domani. Riconoscete i confini. Ritiratevi dalla Cisgiordania, da Gaza, e fatevi il vostro Stato ebraico. Diciamo, lei ci crede ancora che esisterà una pace possibile tra israeliani e palestinesi oppure ormai non c'è più speranza? Se loro continuano ad occupare la nostra terra, allora la risposta è no, non ci credo. Solo se noi saremo liberi, allora ci sarà pace. Quest'ultima guerra rafforza sia Hamas, ma anche Netanyahu. Maria, grazie. Listen, Netanyahu is finished. He's done. Netanyahu è finito. Sta provando a riguadagnare consensi con la guerra e sfortunatamente sono i civili a pagare il prezzo. Israele non riuscirà mai a indebolire Hamas. E sa una cosa, il sostegno a Hamas non è mai stato così alto. Diciamo, come esponente di Fatah, il fatto che Hamas sia ormai il partito, il movimento di riferimento, non le fa rabbia, non le fa tristezza? Certo, cara mia, ma dobbiamo accettare la realtà. Non possiamo fare finta di nulla, non possiamo fare gli struzzi. Voi in Italia eravate contenti di avere Salvini al governo? Gli americani erano contenti di avere Trump al governo? A me non piacevano, ma nessuno ha pensato di bombardare l'Italia o gli Stati Uniti perché non gli piaceva il risultato elettorale. In democrazia bisogna rispettare il risultato elettorale. L'Europa dice fate le elezioni, ma se vince Hamas non ci vogliamo parlare. Quindi la soluzione sarebbe che l'Europa, l'America trattasse con Hamas, perché Hamas rappresenta gran parte dei palestinesi. Io sono stufa di sentire Biden che dice che lui è per la soluzione dei due stati. Sì, certo, e poi sono stufa di sentire gli appelli dell'Europa. Dopo tutto quello che sta accadendo, cosa dice? Che Israele deve concedere libero accesso ai luoghi di culto. Non è questo il nostro problema. Il nostro problema è l'occupazione. Il nostro problema è che Israele occupa il 70% della nostra terra, che abbiamo 250.000 coloni sulla nostra terra, che mettono a rischio la mia vita ogni giorno e si prendono il 90% della nostra acqua. Nella nostra vita quotidiana è occupazione. E umiliazione. Come finirà questa guerra? A che cosa porterà? Listen, nothing. It only a nulla. Porta solo tristezza, porta più vittime. Questa guerra porterà solo altro odio. Suada Miri, grazie per essere stata con noi. Grazie e buona serata. Quello che avete appena ascoltato era l'intervista di Maria Cuffaro a Suad Amiri su Rai 3 del 18 maggio. Nel corso della trasmissione avete ascoltato le seguenti canzoni: Dammi Palestine, Il mio sangue è palestinese. A seguire Palestine Music of Intifada, la musica dell'Intifada. Rita, cantata da Mira Awad, sulle parole della poesia di Mahmoud Darwish. Il trailer del film Nightmare of Gaza, del regista Farah Nablusi. Vi informiamo adesso che la comunità palestinese in Toscana organizzerà, insieme ad altre comunità, organizzazioni e associazioni, una fiaccolata sabato 22 maggio dalle ore 18:30 fino alle 20:30 in piazza San Firenze per dire no alle aggressioni e alla guerra ingiusta contro il popolo palestinese e contro la deportazione dei palestinesi nel quartiere di Sheikh Jarrah, contro le oppressioni ai luoghi sacri di culto musulmani e cristiani a Gerusalemme. Siete tutti invitati a partecipare, ovviamente numerosi, portando con voi bandiere palestinesi e candele. Preghiamo tutti di diffondere la voce di questa fiaccolata e condividerla sui vari social media. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento al 2 giugno, mercoledì 2 giugno, sempre alle 17:30. Inshallah! E la solidarietà a tutto il popolo palestinese in lotta. La lotta del popolo palestinese non parla solo ai palestinesi, ma è la lotta che parla a tutti i popoli del mondo, a tutti i popoli oppressi dall'imperialismo, a tutti i popoli che lottano contro il sistema che ogni giorno semina morte, miseria, barbarie e distruzione. Oggi per qualche strano motivo assistiamo a un paese come Israele a cui tutto è concesso. Israele è un paese in cui si spara sulle manifestazioni dei civili. Israele è un paese in cui ci sono prigionieri politici. Israele è un paese in cui anche i bambini vengono trattenuti all'interno delle carceri. Israele è un paese canaglia, un paese che da oltre 70 anni porta avanti una vera e propria politica di segregazione razziale. Eppure tutto questo viene concesso, perché bisogna dirlo, quella bandiera, quella stella presente sulla bandiera di Israele è la 51esima stella degli Stati Uniti, il paese che maggiormente supporta queste politiche criminali e vergognose, e che poi si riempie la bocca parlando della più grande democrazia del Medio Oriente. Ecco il modo in cui gli Stati Uniti e l'imperialismo occidentale esportano la democrazia. Quello che stiamo vedendo in questi giorni è quindi il vergognoso attacco, la prova di forza voluta dal governo israeliano, è una vera e propria prova di forza, una prova di forza, un'ostentazione militare che vuole dare un segnale chiaro, vuole dire che le concessioni fatte dall'amministrazione Trump non possono essere messe in discussione. Nonostante l'intensa e la vergognosa attività da parte dei media e della politica italiana di ricercare una parificazione tra il vergognoso attacco israeliano e la reazione palestinese, è estremamente chiaro che le autorità israeliane sono pienamente e completamente responsabili per questa nuova escalation che hanno deliberatamente provocato. Per questo sosteniamo il popolo palestinese che lotta con determinazione e che non si piega di fronte alla repressione, alla repressione e alla barbarie. Avanti popolo palestinese, avanti pure la vittoria! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! صفقة جو لا صفقة جو.